Straordinario! Il tuo lancio ha avuto successo e i briganti nel tuo quadrante sono stati messi in fuga. Complimenti, avventurieri! Siete stati baciati dalla fortuna, avete sconfitto i briganti e potete riappropriarvi delle vostre provviste. Il cibo, purtroppo, è già stato venduto, ma potete prendere i soldi con cui è stato scambiato.